rosso, ma la tristezza però si può racchiudere dentro una canzone che canterò. Ogni volta che avrò voglia di parlarti, di vederti, di toccarti, canzoni preferite da Roberto Gentile. I'm talking kissing, cuddling, rose petals in the bathtub.

Le canzoni più amate da Roberto Gentile. Yeah.

was a dream.

caffè un po' leggero, così puoi dormire se lo vuoi. Perché io ho bisogno di un piccolo aiuto, e lo sai, nel mio letto c'è un posto per te. Non parlare se non ti va e riposati quanto puoi. Ho bisogno di serenità e di un piccolo aiuto. Del tuo aiuto, e lo sai, nel mio letto c'è un posto per te. Questa volta, come vedi, non mi reggo più nemmeno in piedi. Ho bisogno di serenità e di un piccolo aiuto. Ciao Roberto. Capolavoro! Le canzoni più amate da Roberto Gentile. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Please you, baby. Oh, Radio Subasio. Ma cosa vado a fare? Non lo so. Volo molto in alto, non vedo niente, non si vede un accidente. Da qui lei ha gli occhi a mandorla, e una faccina piccola, così, con i suoi fratelli. Colina come quella, vuoi vedere la foto che ho con te? Ma cos'è che sta volando? Sembra una pallina. Qualcosa sta ancora volando, lentamente si avvicina. Movimento spara, prima che l'altro faccia lo stesso con te. Ogni piccolo sentimento spara, è meglio non chiedersi niente, ma stavolta voglio vedere chi è. Da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll. Era una macchina negra, adesso mi chiamano Zebra, da quando mi ha messo le braccia di un bianco di nome John. Tu vuoi andare a Washington? Cosa vai a fare laggiù? Rimasto in piedi, più niente, nemmeno là. Chissà se mi sta ascoltando. È una bella mattina. Chissà se anche lui sta pensando. Eccolo lì che si avvicina. Roberto. E andiamo a vincere, amici! Le canzoni preferite da Roberto Gentile. Yeah.

Ciao Roberto. Capolavoro! Le canzoni preferite da Roberto Gentile. Yeah. Ciao Roberto. E andiamo a vincere, amici! Le canzoni più ascoltate da Roberto Gentile. Prima di partire per un lungo viaggio, devi portare con te la voglia di non tornare più. Prima di non essere sincera, pensa che ti tradisci solo tu. Prima di partire per un lungo viaggio, porta con te la voglia di non tornare più. Prima di non essere d'accordo, prova ad ascoltare un po' di più. Prima di non essere da sola, prova a pensare se stai bene tu. Prima di pretendere qualcosa, prova a pensare a quello che dai tu. Partire per un lungo viaggio, porta con te la voglia di adattarti. E prima di pretendere l'orgasmo, prova solo ad amarti. Ma prima di non essere sincera, pensa che ti tradisci solo tu. Prima di pretendere qualcosa, prova a pensare a quello che dai tu. Pretendere qualcosa, prima di pretendere qualcosa, prova a pensare a quello che dai tu. Ciao Roberto. Capolavoro! Le canzoni più amate da Roberto Gentile. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. switch on the TV. We may pick him up on channel 2. Look out your window, I can see his light. If he can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa or he'll get us locked up in time. There's a star. Starman, David Bowie su Radio Subasio, capolavoro, come diceva Roberto Gentile, due ore a lui dedicate, due ore di musica. Abbiamo dato il nostro ultimo saluto a Roberto oggi e nell'occasione abbiamo suonato le canzoni che lui amava di più e ci piaceva immaginarlo da qualche parte, sorridente come era sempre lui mentre ascoltava Radio Subasio, mentre si godeva la sua musica preferita durante il viaggio, perché è bello pensare che la musica di Radio Subasio, mi piace pensare questo, possa arrivare ovunque, ovunque e anche oltre. Ciao Roby.